cambierà, le nuvole son nere in cielo, e che i passeri lassù non voleranno più, chissà perché. Io non cambio mai, no, non cambio mai. Può cadere il mondo, ma che importa a me? Se mi guardi tu, butta via l'ombrello, amor, che non serve più, non serve più, se ci sei tu. Il sole se ne va, l'inverno fa paura a tutti, ma c'è dentro me che non si spegnerà, lo sai perché? Se mi guardi tu, butta via l'ombrello, amor, che non serve più. La pioggia.